Eccoci, come promesso alle 18.30 cominciamo. Ne abbiamo due su quattro, che è un 50% di quelli annunciati, che non è male. Un altro dovrebbe essere per strada, la quarta, come vi ho detto, invece è a letto con la febbre. Eccoci qua. Questo libro l'ho scritto quando già a Milano abitavo da tanti anni. Io vengo da fuori, dal contado, ed ero arrivato qui nella metropoli, che mi era un po' sconosciuta. Per dirvi, quando ero arrivato mi occupavo un po' di, come dire, sovversione sociale, non so come chiamarla, mi avevano affidato alcune zone della città, in particolare la Bovisa, un nome che mi era completamente sconosciuto, e quello che era il mio professore universitario in un'altra città mi aveva incaricato di trovare adepti in questo quartiere o comune, non sapevo bene. Quello che mi ricordo è che, passando con la mia 500 sopra e sotto il cavalcavia, vedevo delle freccette con scritto Bovisa. Scendevo seguendo le istruzioni, ma questa Bovisa non la trovavo. Era una specie di arcano e di mistero. Poi, un po' alla volta, ho capito come era fatta questa Bovisa, mi ci sono integrato, siamo riusciti persino a trovare anche questi famosi adepti. Poi sono passati gli anni, mi sono messo a fare l'avvocato, ho conosciuto un sacco di gente, mi sono immerso dentro la città, è diventata la mia città. Passando il tempo e diventando un po' vecchietti, si torna indietro e si vedono le immagini, le persone, i fatti, le storie. Di gente ne ho conosciuta un po' tanta, e ho visto anche questa città che è cambiata profondamente, non solo dal punto di vista delle immagini, dei palazzi, è cambiata anche nei rapporti sociali. Io mi ricordo, per esempio, arrivato qui a Milano, c'era un posto chiamato il Cantinone, che era in pieno centro. Ecco, in questo cantinone si trovavano a bere un bicchiere le persone più diverse, gente del consiglio di fabbrica, l'avvocato di Mediobanca, il professor Alberto Mignoli, che era il docente di diritto commerciale alla Bocconi e che discuteva pianamente a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, sorseggiando vino, e il professor Mignoli beveva molto di più di tutti i comitati di fabbrica messi insieme, pur conservando una capacità e una lucidità incredibile. Io mi ricordo una volta che l'avevo visto bere mezza bottiglia di Fernet a fine pasto, e stava andando a scrivere il contratto di vendita della Fiat a Gheddafi, da lì a poco. Ecco, Milano era una città per certi versi sorprendente, era fatta così. Gian Giacomo Feltrinelli e Giovanni Pirelli avevano un discreto patrimonio, diciamo così, sotto mano. Le cartiere Feltrinelli, la casa editrice era quasi un giocattolo rispetto al patrimonio di Gian Giacomo Feltrinelli, e la Pirelli, tutti hanno girato con le gomme Pirelli. Giovanni Pirelli ha scritto anche però per le Einaudi le lettere ai condannati a morte della Resistenza, e si era, diciamo così, prenotato o comperato un teatro per farci il comitato Vietnam. Era sorprendente questa città, e per uno come me che veniva dal contado la sorpresa era quasi tutti i giorni davanti agli occhi. Questo libro è un po' un omaggio alla città in cui sono cresciuto, in cui ho vissuto tutti questi anni, in cui ho casa. E come è nato meccanismo. È nato un po' per colpa di un cardinale, il cardinale Ravasi. Ci era capitato di incontrarci per un altro personaggio milanese straordinario, che era Giancarlo Vigorelli, presidente della Casa del Manzoni. C'era, adesso senza star dietro, c'era un libro da fare, e il cardinale Ravasi è uno specialista di molte cose che riguardano le religioni, ma l'Apocalisse in particolare era un testo che aveva particolarmente caro. Ci fece delle trasmissioni televisive incredibilmente di successo nonostante il testo. Mi pare fossero su Canale 5, ma non sono sicuro. E questo commento pubblicato su questa esperienza mi aveva colpito particolarmente. L'Apocalisse, diceva, soprattutto è un libro travisato, perché ci ricorda solo e semplicemente il disastro, mentre in realtà è il libro della rivelazione. Ed è un libro che è sempre stato caro anche ai rivoluzionari atei, proprio per questo. I quattro cavalieri dell'Apocalisse e i quattro cavalli e i mesi dell'anno, che sono 12. Questa è un po' la costruzione. Per ogni cavallo che ha una rappresentazione simbolica, ho incastrato uno dei tanti personaggi che ho avuto modo di incontrare nel corso della mia permanenza in città. E quindi c'è prima il cavallo bianco, che è l'abbattimento di tutto ciò che c'era prima, la distruzione. E quindi questo cavallo bianco, in un'epoca di transizione, rappresenta la crisi di coloro che erano stati nel tempo in cui la crisi cominciava. E quindi sono tre personaggi un po' tristi che vanno incontro ad un destino piuttosto malvagio. È il periodo delle grandi imprese che chiudono, delle casse integrazioni, della tristezza, della droga, del non riuscire a sfuggire a un destino. Dopo il primo cavallo ne arriva un altro, e lì ci sono i personaggi che rappresentano un po', chiamiamola, la resilienza, il tentativo di sopravvivere dentro una società che cambia. Il terzo cavallo è qualche cosa di più di questa resilienza, è il tentativo, è l'opposizione individuale. Cioè, dentro questi anni tutti abbiamo avuto modo di incontrare delle persone che chi magari facendo lo scrittore, chi il rapinatore, chi l'imprenditore, ognuno, diciamo, cerca di scavarsi una soluzione individuale. E infine c'è il conflitto. E dentro il conflitto però sorge il nuovo, e gli ultimi tre personaggi sono, per esempio, c'è un afgano che parte dall'Afghanistan, fa tutto un lungo viaggio in macchina, che mi sono proprio trascritto dopo una lunghissima intervista, segnandomi tutti i pezzi per costruire la storia. Il divertente è che quando arriva in Austria con un'automobile, gli austriaci gli danno qualche soldo, un biglietto ferroviario e dei vestiti, dicendo: guarda, è meglio che non stai in Austria, vai in Italia e di che sei arrivato su una barca. Devo dire che, con tutta la fantasia che non mi è mai mancata, l'idea di un poliziotto austriaco che dà un vestito e paga un biglietto a un tale perché dica di essere arrivato su una barca in Italia, se lo andassi a raccontare pensavo sarei il primo a non crederci. Eppure quello non mi stava mentendo, mi stava raccontando esattamente quello che gli era successo. Arrivò a Foggia. A Foggia fu assistito da questi bravi cattolici che aiutano la gente, che in qualche modo aveva trovato, e via via arriva a Milano ad Amazon, e dentro Amazon fa tutto il suo cursus honorum e diventa un dipendente fisso di Amazon dopo solo 5, 6, 7 anni di precariato. E la prima cosa che fa questo giovane ragazzo che viene da Kabul è quello di sposarsi per procura. E lì io rimango, diciamo, da bianco occidentale un po' perplesso di fronte, ma come? Non hai imparato una mazza di niente dopo tutto questo? E lui lo trovava invece, era stupito del mio stupore, perché lo considerava un fatto normale come essere salito su un'automobile, come essere stato mandato a Foggia da un austriaco con la divisa, e anche il matrimonio, che pare peraltro funzioni meglio di molti altri. Non bisogna in fondo partire con preconcetti, perché dentro c'è un grande meticciato, cioè quella città che impariamo a vedere giorno per giorno e ora per ora, che si mescola, eccetera, è una città che non merita dei giudizi preconcetti. Ognuno deve difendere tutto quello in cui crede, ma nello stesso tempo imparare anche ad ascoltare, a vedere e a leggere le cose. Queste 12 storie hanno un prologo. Il prologo era stato il primo pezzo che ho scritto, ma gli avvenimenti me l'hanno rapinato. A me sembrava di aver trovato una cosa così carina e nuova, e tutto quello che... È un tale che parte, cioè una coppia di eritrei che vanno a imbarcarsi dopo aver pagato con la wala, che è la forma di pagamento sulla fiducia, il viaggio. Arriva in Libia, si imbarca e arriva a dove mi era venuta l'idea di scriverlo, perché io andavo in vacanza a Pozzallo. Non era proprio Pozzallo, era Ispica, un po' vicino, ma insomma Pozzallo era proprio lì sotto. E arrivavano un po' di questi, e chi arriva? Un bambino appena nato, poco prima di partire, che arriva, ed è uno che, il gioco era, lo chiamano clandestino, ma la prima cosa che ha un numero di timbri e di documentazione che nessun neonato può avere, dal centro primo centro di assistenza fino all'asilo, eccetera. È una delle persone più codificate del globo terrestre. Ecco, quello che, quando l'avevo scritto, era ormai 5 anni fa, io sono lentissimo nel produrre carta scritta, e ne sono arrivati talmente tanti e mi sono ritrovato degli interi pezzi che anche non sono finiti nello scritto ma erano negli appunti, che sono identici a quelli del film che avrete visto tutti sul clandestino che attraversa il deserto. Partiva solo dalla parte dell'Africa occidentale, mentre io li facevo partire dall'Africa orientale, ma non cambia moltissimo. E l'ultimo invece sono un ragazzo e una ragazza che decidono di andare a farsi di peyote per così, una specie di esperienza che a loro sembrava una buona idea, e vanno in un posto abbandonato di Milano che forse molti non conosceranno, e che è il Bassi. Il Bassi era il più grande sanatorio d'Europa, probabilmente. fu costruito in tempo record alla fine dell'Ottocento nella zona di Dergano. Perché? Perché l'aria era particolarmente buona e quindi era stato scelto. 6 palazzine Liberty, una vecchia villa padronale riattata e un edificio, chiamiamolo centrale. È stato abbandonato negli anni Ottanta, mi pare, poco prima del Covid. Non rendeva, cioè questa struttura pubblica era perfetta. Le 6 palazzine era perché tutte le malattie infettive avevano una loro palazzina, quindi diciamo ci sarebbe stata una palazzina Covid accanto ad una palazzina di poliomielitici, se ce ne fossero ancora, e così via, quella dell'influenza, eccetera. Ma il posto è chiuso, completamente abbandonato, e dentro un parco alla periferia della città, nella zona quella di Viale Jenner, di grande fascino se uno lo va a visitare questi posti in via di decomposizione. Non ci stanno neanche più i barboni, perché li hanno quando cercavano di fermarsi li sfrattavano. Non si capisce neanche il perché li dovessero sfrattare, ma così è stato. E questi ragazzi dentro lì, e questo è l'epilogo, hanno una specie di visione, che è la visione dell'Apocalisse, la rivelazione di quello che sarà il tempo nuovo. La caduta, come nell'Apocalisse, cade Gerusalemme, cadono le grandi città, i templi moderni, la metropoli rovina al suolo, sparisce, si decompone, si sgretola, non rimane più nulla, e lascia lo spazio a che cosa? All'acqua, che è gratis per tutti. Beh, devo dire che questo Giovanni che scrisse l'Apocalisse l'avremmo assoldato volentieri dentro un gruppo rivoluzionario, perché forse un po' troppo fantasioso, ma diciamo assai radicale lo era sicuramente. E questa è un po' la struttura del libro. Io avevo chiamato Lucia Tozzi perché per la parte urbanistica ogni storia ha un pezzo della città, questo è il tributo. Ci sono i vecchi quartieri, come sono nati, le case popolari, come si sono formate. Piazza Martini e Piazza Insubria sono quelle che ho vicino a casa, con un viale che le unisce. Poi la zona di Greco e poi quella di cui sentirete Quarto Giaro, la grande Quarto Giaro che era un altro mondo, le case minime di Quarto Giaro abbattute, anche quelle furono costruite durante il fascismo ed era lo stile cosiddetto autarchico, basse, piccole, pareti sottilissime e terra battuta all'esterno, con questi primi immigrati a Milano che si andavano a fare anche l'orticello per costruirsi qualche cosa, e poi viene tutto di nuovo riabbattuto, le grandi fabbriche che avevano costruito per farci abitare gli operai delle case minime lì vicino, e anche quelle sono sparite. La città cambia, muta e muta ripetutamente. Ecco, questo qui era per darvi un'idea del libro. Lucia era per la parte urbanistica, l'ho fatta io in qualche modo, ma molto meno bene di lei, perché si occupa di queste cose professionalmente. Atomo è perché quando ci siamo conosciuti lui era poco più che un bimbo ed era un po' così. Uno lui non, si è salvato, non l'ho messo. Non l'ho messo lì, però è, diciamo, la rappresentazione di questa capacità di attaccarsi alle cose, alle persone, agli esseri umani, di viverci insieme, di diffondersi insieme. Per me Atomo è un pezzo della città. Come? Sì, allora facciamo il primo pezzo. Sono delle letture dei testi. Allora, questa qui è Gina, vero? Gina. Sì, allora, Gina è a Quartaggiaro, nasce nelle case minime e nasce quando comincia, è giovanissima, fa le scuole medie e superiori quando cominciano le manifestazioni degli anni 70 e cambia il quartiere. I suoi genitori sono due immigrati molto timorosi e molto attenti a non mettersi, come direbbe Manzoni, nei tumulti. E di sfondo ci sono un po' tutti, c'è la Quartaggiaro che muta e c'è soprattutto un poliziotto. Questo qui, devo dire, ne ho conosciuti almeno 4 o 5 di poliziotti così, di quelli che se ne stanno sempre zitti, muti, chiusi, sempre con la loro vita ordinata e che cercano di fare il loro lavoro, perché questo è il loro lavoro, beccare le persone, tenerle d'occhio, evitare che succedano avvenimenti. E che cosa fa? Riesce a convincere, quando c'è l'esproprio all'Esselunga di Quartaggiaro, che questo, come sapete, fu un fatto reale, e tutta la gente si portava a casa tutto quello che poteva, riempiva le sporte, il maresciallo, quando vede quello che è accaduto, corre e riesce, temendo le ire dei suoi superiori per non essere intervenuti in tempo, cerca di risolvere la cosa. Acchiappa una delle partecipanti che individua come quella più fragile e la trasforma in una confidente. E finirà per diventare commissaria di polizia dopo aver convissuto con due anime. Ne abbiamo conosciuti tanti con due anime, se ci pensate. Non è una cosa così straordinaria. Prima faceva il ladro, poi la spia, adesso è commissario di polizia. Gina era una ragazza allegra, abituata a vivere nella strada, in gruppo, senza farsi prendere dall'ansia per ciò che poteva riservarle il domani. Quando cominciò a frequentare l'istituto professionale in via Moretti nel 1973, l'autunno caldo operaio e le agitazioni studentesche avevano già completato la semina. I tempi di una protesta generalizzata erano maturi, ormai non la si poteva più evitare. I gendarmi concordavano sul punto, però aggiungevano al rilievo sociologico una proverbiale considerazione operativa: quel che non si può scansare, si può almeno sopprimere. Davanti al commissariato di via Satta, il maresciallo Nisticò fumava la sua stop senza filtro, rifletteva, ridacchiava fra sé e sé con una certezza in testa: non abbiamo certo cominciato noi questo casino, lo abbiamo soltanto voluto. Da qualche tempo teneva d'occhio i collettivi studenteschi, i comitati di base che si andavano formando al di fuori delle organizzazioni sindacali storiche, gli universitari maoisti, sempre pronti ad intervenire con megafoni e volantini incendiari. Nisticò, il suo mestiere di sbirro, lo conosceva bene. Curava i dettagli, difficilmente dimenticava una voce, un volto, un'espressione felice, impaurita o soltanto imbarazzata. Non aveva bisogno di fotografie. Sosteneva che portano spesso verso la direzione sbagliata, che sembrano catturare la realtà e invece ingannano. In casa non parlava mai di lavoro, né con la moglie né con i figli. I figli, anzi, li aveva mandati a studiare in un altro quartiere, lontano da Quartaggiaro. Si metteva la divisa solo quando non se ne poteva proprio fare a meno, la teneva chiusa nell'armadio, protetta da una spessa custodia impermeabile. Vestiva in borghese. Sotto una giacca larga o magari un giubbotto, indossava maglioncini in lana leggera con il collo a dolce vita, grigio-azzurri o beige. mai sgargianti e neppure neri come quelli degli esistenzialisti. Con la sua faccia qualunque Nisticò passava inosservato, nessuno faceva caso a lui. Quando si sedeva al bar di via Capuana per il caffè, ascoltava impassibile le chiacchiere al banco senza darlo a vedere. In questo modo si teneva aggiornato, imparava, metteva a frutto ogni notizia, si trattasse di un furto, di uno spaccio o di questioni politiche. Lo faceva senza alcuna animosità, doveva farlo, voleva farlo bene. Con la necessaria precisione, lo pagavano per questo. Anche al professionale di via Moretti si scioperava spesso nel 1973 contro il golpe di Pinochet in Cile, per solidarietà con i lavoratori dell'Alfa, per la gratuità dei trasporti e della scuola, una volta perfino chiedendo la riparazione immediata dei termosifoni rotti. Gina non ne perdeva uno, cantava e gridava nei cortei, partecipava alle riunioni del CPM, il gruppo comunista più radicale fra quelli che si erano insediati in zona. Durante le assemblee prendeva appunti sul diario Vit, con una grafia tonda, ordinata, usando per vezzo diversi colori di inchiostro. Il rosso se era d'accordo con l'intervento, il verde se non le piaceva. A casa non erano per niente contenti di un attivismo così irrequieto, faticavano a star zitti, ma i voti erano buoni, il rendimento scolastico fra i più alti della classe, dunque trovare motivi di lamentela era difficile. Al più usciva dalla bocca dei genitori qualche borbottio in un dialetto veneto ormai logorato dal tempo, inquinato dai lombardismi. Si limitavano a sperare che non arrivassero guai, e invece i guai arrivarono un sabato, il 19 ottobre 1974. Quella mattina a Quartogiaro, verso le 10, circa 200 giovani marciarono in corteo. Durante il percorso scandivano bellicose parole d'ordine contro il carovita. Sembrava la solita passeggiata del sabato, con gli operai del portello in tuta e gli studenti in sciopero, una manifestazione tranquilla, senza polizia al seguito. Gina aveva 15 anni, ma ne dimostrava qualcuno di più. Stava poco dietro il cordone della prima fila che reggeva lo striscione, lotta dura senza paura. Camminava a braccetto delle sue amiche, portava calzoni comodi di velluto verde e un eschimo sopra il golf di lana. In via Moretti, con un'azione imprevedibile ma ben preparata, una ventina di manifestanti a volto coperto si staccò improvvisamente, entrando nel supermercato Esselunga, pieno zeppo di gente che faceva la spesa, tutti abitanti del quartiere. Per prima cosa tagliarono i fili del telefono, sorprendendo gli addetti alla vigilanza, rimasti immobili perché colti di sorpresa, esterrefatti. Poi presero possesso delle casse, invitando chi stava in coda ad andarsene senza pagare nulla. Tutti quanti, pur se intimiditi, eseguirono senza farsi troppo pregare, passando davanti alle impiegate, senza riuscire a nascondere un sorriso soddisfatto. Tre oratori improvvisati tirarono fuori dalla borsa a tracolla il megafono e cominciarono ad arringare il pubblico che si aggirava fra gli scaffali pieni di merce. Uno, con una voce chiara, priva di inflessioni dialettali, diede istruzioni concrete. Questa si chiama azione ribasso. Contro l'aumento dei prezzi, oggi si prende quel che serve per mangiare gratis. Un'altra, magra e avvolta in un impermeabile lungo fino ai piedi, si rivolse garbata alle donne. Basta con i sacrifici, basta soffrire, riempiamo le borse, prepariamoci a far festa, pigliate senza guardare il prezzo, tanto oggi non serve avere soldi, è sufficiente avere fame. Il corteo si era fermato. Alla spicciolata tutti cominciarono a entrare nei locali di Esselunga, mescolandosi agli acquirenti normali. Ormai c'era una folla. Il direttore non sapeva che pesci pigliare, i vigilanti erano sempre più sbigottiti. La gente riempiva sacchi e sacchetti, in tanti sgattaiolavano via verso la strada, diretti a casa, con l'inattesa refurtiva ben stretta fra le mani. Anche Gina, dopo breve esitazione, ruppe un indugio, si lanciò nella mischia, fece incetta di vino francese, birra, buste di salmone, di culatello, sottaceti, acciughe, ventresca di tonno, filoncini di pane morbido, maionese. Riempendo la borsa già pregustava una ricca colazione con i compagni nel giardino di Villa Scheibler, vista anche la bella giornata di sole. Si ritrovarono più tardi, insieme, felici, seduti sulle panchine del parco e sull'erba, affamati, golosi, in branco. Con l'esproprio la manifestazione del resto era terminata senza code pericolose e inutili. Il volantino di rivendicazione fu diffuso solo l'indomani in forma anonima a firma gli operai e le donne dei quartieri. Mentre era in corso il saccheggio nel bar di via Capuana, il maresciallo Nisticò, pigramente seduto al tavolo d'angolo, stava sorseggiando un cappuccino quando vide entrare nel locale quasi di corsa una coppia di coniugi calabresi. Tenevano fra le mani due grandi borse in tela piene zeppe e ordinarono il caffè dopo aver posato i carichi pesanti a terra. Abitavano al terzo piano, in quello stesso stabile. Apparivano piuttosto eccitati, con una gran voglia di raccontare quel che era appena accaduto all'Esselunga. Si sfogarono, rubandosi a vicenda le battute di un copione recitato a soggetto. I due si guardarono bene dall'ammettere di avere pure loro prelevato tutto quel che potevano, ma le borse parlavano per loro senza lasciar dubbi. Nisticò comprese che era meglio far finta di nulla. Si trovava in un ambiente ostile alle guardie, spesso solidale con i malfattori. Uscì svelto dal bar, raggiunse il commissariato, ordinò ai suoi uomini di recarsi immediatamente all'Esselunga, telefonò per chiedere rinforzi. La pattuglia fu sul posto in pochi minuti, ma in via Moretti non c'era ormai più nessuno ad attendere la volante. I saccheggiatori erano svaniti nel nulla dopo aver prelevato, secondo un primo calcolo del direttore, almeno 4 milioni di merce. Il questore se la sarebbe presa con lui, mettendolo sotto accusa per essersi fatto sorprendere, per non aver arrestato neppure un responsabile. Immerso nelle sue riflessioni, il poliziotto si incamminò a piedi da solo sulla strada del ritorno a casa. Durante il tragitto, davanti al parco Scheibler, gli cadde l'occhio sul capannello che mangiava spensierato fra una risata e l'altra. Si soffermò ad osservare Gina, ritta in piedi, sfrontata nella posa, e capì in un istante, d'intuito, come andava sbrogliata la matassa. La ragazza certo non avrebbe raccontato nulla di quel giorno ai genitori, li conosceva bene, erano persone umili, rispettose delle gerarchie sociali. Questo era un punto debole su cui era sicuro di poter far leva per realizzare il suo piano. Doveva agire senza indugio, prendendo il bersaglio alla sprovvista. A passi svelti raggiunse via Zoagli e si mise impaziente attesa della ragazza. Adorava tendere agguati, spucare inatteso, colpire. Io e te dobbiamo scambiare due parole, Gina, sta inguaiata di brutto e bisogna vedere come se ne esce da questo casino, ma non è detto che se ne possa uscire. Quella rimase immobile, fulminata, incapace di reagire. Lo sbirro comprese di averla in mano e proseguì, perfido. Naturalmente mica sei obbligata a starmi a sentire, signorina bella. Se preferisci ti mando a casa una convocazione in commissariato per la rapina all'Esselunga, così da minorenne vieni accompagnata dai genitori, no? Lo dice la legge. Gina si sentì mancare. Oh, parliamone, ma non qui, spostiamoci. Comunque io non so proprio nulla. Non lo aveva ancora capito di essere ormai senza scampo. Camminarono e parlarono ininterrottamente per quasi 3 ore. Percorrendo le vie del quartiere, Nisticò si servì già all'inizio di un saltafosso, consapevole che, ingenua e inesperta com'era, lei ci sarebbe caduta. Disse di avere deposizioni di ben 4 testimoni, l'avevano vista entrare nel supermercato insieme ai manifestanti con il volto coperto, poi aveva rubato dagli scaffali e aiutato altri a fare lo stesso, insomma, era incastrata. Alternando minaccia e protezione, l'astuto maresciallo seppe vincere passo dopo passo ogni dubbio, ogni ritrosia, conquistando infine l'adesione all'accordo. Gina non sarebbe stata denunciata, era liberata da ogni conseguenza penale, completamente salva. In cambio, fornì i nominativi di chi aveva tagliato i fili del telefono e aizzato il pubblico con il megafono. Nisticò li conosceva bene. Con quella soffiata ci avrebbe pensato la polizia politica a trovare le prove adatte per processarli e condannarli come meritavano. Inoltre, e questa parte del patto non aveva precisa scadenza, Gina avrebbe continuato a frequentare i collettivi del movimento, inviandogli di nascosto periodiche informative. Si salutarono che ormai imbruniva, a casa la rimproverarono per essere sparita ma senza troppa foga, giusto per ribadire la gerarchia domestica. Poi si misero a tavola, mangiarono i maccheroni con le polpette al sugo, si presero in giro tutti e 5 a turno, senza un'ombra di cattiveria, con affetto. Gina dimenticò fra le mura domestiche quella giornata violenta. Cominciò per lei una nuova vita, doppia. Le avrebbe vissute entrambe. Del resto, ormai, non aveva scelta. la novella successiva. Ciao a tutti. Si sente? Che dire? È vero, la città cambia, continua a cambiare. Un giorno vedi una costruzione bassa, il giorno dopo c'è un cantiere, in un anno è diventata una torre di 15, 16, 18 piani, per non parlare laddove non c'era nulla e ci trovi una città intera, penso a dietro Bisceglie nell'arco di 2 anni c'è un'intera città, migliaia e migliaia di nuove residenze senza un negozio, probabilmente poi faranno un mega supermercato, senza un servizio, senza nulla, se non il Beccaria lì a fianco. Cambia relativamente nelle periferie. Le periferie sono più o meno come le ho conosciute io da giovane. Non c'è più il busto di Mussolini nei baracci della periferia, non c'è in altro bar il quarto stato. C'è il gattino cinese che con la manina saluta, i ritmi sono gli stessi, ci sono sempre i vecchietti col bianchino, giocano un po' meno a carte, sono più tutti lì in attesa di vedere questo continuo elenco di numeri che esce ogni minuto, un'estrazione, a giocarsi tutta la pensione. L'integrazione c'è in parte, rimangono... nell'integrazione rimangono comunque delle sacche di tradizione particolare, perché vedi anche gli sbarbati ormai cresciuti qua che sono tutti attenti ai pantaloni alla moda, a mettersi le cose firmate da qualche laboratorio clandestino, poi però vanno in giro in ciabatte. No, perché? Perché a Marrakech si va in giro in ciabatte, e quindi anche a Milano, anche se sei vestito da fighetto, va in giro in ciabatte. C'è perché c'è la famiglia di sudamericani, tutti belli, pallonzolotti, belli cicciottelli, vanno a lavorare, i figli vanno a scuola, seguono tutti i corsi, fanno il dopo scuola con gli altri, tutto regolare, e poi però non ci piove. La domenica bisogna andare al parco a fare la grigliata, quello è un must, non si può scappare. C'è una differenza nella cultura nostra, tutti i ragazzi sono tutti pseudo eleganti nella loro maniera, palestrati, tutti esclusivamente palestrati, curatissimi nel fisico. Ogni settimana dal parrucchiere, anche se i capelli sono corti così, devono rimanere corti così. Le ragazze in periferia sembrano un po' tutte musulmane, anche a 15 anni sono già sformate. Nella cultura di migranti che non sono non italiani, sono immigranti italiani, c'è questa cultura che comunque la donna sta a casa, la donna in palestra non ci deve andare, boh. Mentre invece passi qualche via, entri verso il centro e cambia tutto. Sono tutti perfettini, tutti carini, anche le donne. Ed è una cosa inspiegabile. C'è una violenza come c'è sempre stata. Però è vero che se prima la violenza era cazzo c'è da guardarmi e ti tiro una testata, 2 schiaffoni, adesso si arriva ai coltelli molto più facilmente. Ce l'hanno tutti. Girano tutti col coltello. I lavori sono soliti, peggiori, precari. Chi riesce a trovare lavoro va a fare le pulizie o a fare il vigilantes, addirittura vigilantes, con 5 euro e spicci all'ora. Sono tutte cose a chiamata, durano quel che durano, vanno a fare l'antitaccheggio piuttosto che le pulizie negli ospedali. E poi è cambiata la modulazione da dove ci sono ancora dei custodi. Mi ricordo quartiere Grigioni, a spanne da Primaticcio a Tolstoi, siamo dietro Renteggio, e non c'era un custode che non fosse sardo, pazzesco, cioè, c'era tutti sardi. Adesso trovarne uno italiano, sono di tutte le nazionalità, non ce n'è uno che parla l'italiano se non a stenti, non ci riesce ad andare d'accordo, non riesce a capire niente. E questa è la città che cambia, che però vabbè, io penso a quando all'inizio sono arrivati i sardi, penso che le difficoltà fossero le medesime, non credo che si riuscisse a comunicare così facilmente. Niente, questo in attesa che anche la periferia venga finalmente conquistata. Mi viene in mente via Savona, che erano tutte fabbriche, e fabbriche grosse, fabbriche piccole. Le fabbriche grosse sono state le prime ad essere conquistate, dopodiché adesso addirittura dentro i cortili di case di ringhiera nascono case, cioè tutto affacci, a 2 metri hai un muro, eppure le comprano, ci vanno a vivere. Non hai luce del sole, non hai nulla, cresce tutto, però è un investimento, è la Milano che va avanti. Cioè, nell'arco di poco tempo è tutto senza negozi, senza strutture, senza, cioè, esclusivamente abitazioni, con una massa di nuove famiglie che non sai neanche dove parcheggiare, ma non parcheggiare la macchina, perché quelli, i box sotterranei, li fanno. Parcheggiare queste famiglie, come fanno a muoversi, come fanno a respirare, come fanno a stare al mondo. Nel frattempo aprono sempre più supermercati di quartiere piuttosto che grandi supermercati, e in quella che era, che ancora un po' si mantiene, via Giambellino, dove invece i negozi, addirittura gli avvocati, la prima volta che ho visto in vita mia gli avvocati in strada, in negozio. Dove cercavi una merceria, ce n'erano tre. Cercavi un fruttivendolo, ce n'erano tre. Il panettiere, ce n'erano tre. Cioè, era un negozio unico e un quartiere dove si comunicava, dove si viveva. Adesso è un non luogo. Un non luogo. Le mercerie non sono più tre, i panettieri non sono più tre, comunque nel negozio di vicinato poco si va. È più facile, perché i tempi sono quelli, non hai mai tempo, è più facile andare al supermercato, non dialogare con nessuno, tantomeno col cassiere o la cassiera, perché cambiano a seconda dei turni o anche a seconda del termine del lavoro determinato. E niente, la periferia è sempre più fredda, sempre più squallida, non ci sono luoghi di ritrovo, i bar sono anonimi, vabbè, c'è qualche eccezione, ma sono veramente poche. I bar sono anonimi, sono stati presi dai cinesi, continuano la solita cosa, non cambia l'arredamento, non cambia nulla, cambia forse la qualità della merce, che già era scarsa prima, adesso è ancora più scarsa. Poi dopo qualche rivoltina in quartiere c'è, e gli obblighi a comprare quel vino lì, perché quello là te lo bevi te. Piuttosto te lo pago 50, un euro in più, a bicchiere, al calice, però dammi qualcosa di umano. E più o meno si viaggia così, a relazione. I nuovi migranti, anche loro, lavorano o non lavorano, in compenso forniscono tutto il quartiere di parmigiano reggiano, salmone, salame, qualsiasi cosa ordini, a metà prezzo, tutto proveniente dal supermercato, e questa è un po' una salvezza per il quartiere, che all'inizio li vedi, i signori un po' dicono, ma non è giusto, quant'è che vuoi? Via. E niente. Sono nato a Baggio, quindi ho fatto un bel percorso nella mia vita, ho girato più o meno tutte le periferie di Milano, Grattosoglio, Lambrate, sono stato anche qua in Torricelli per alcuni tempi. Alla fine Giambellino, alla fine sono tornato a Baggio e vi dico, in 50 anni sono cambiate le facce, ma la storia è sempre la stessa. Cioè, sì, c'è qualche rituale un po' diverso, un po' nuovo, ma tutto il resto è uguale. I postacci sono postacci, i non luoghi sono non luoghi. Come si fa? Come si fa? Ma chi è quell'architetto? Qua ci voleva la luce. Chi è quell'architetto che pensa che laddove c'hai uno spiazzo, c'hai un'S lunga, ci metti a fianco un distributore di benzina, di fronte un distributore di benzina, dietro un distributore di benzina? Che posto è? Che posto è? E tu ne parli anche con i tuoi amici, ma ti rendi conto? E vabbè, cosa c'è? Come cosa c'è? Ma ti sembra normale? Sì. È questo che è l'abitudine alla bruttura. È l'abitudine alla bruttura. Cioè, una volta che ti hanno abituato a questo, qualsiasi cosa possono fare. Anzi, se tirano giù una casetta carina, vecchia, malconcia, che nessuno la curava più, e ci fanno un palazzone, che bello, è nuovo. È questo. Basta, scusate. Come procediamo? Ma dunque, fai qualche minuto tu e poi facciamo la lettura e poi facciamo chiudere a Massimo. La novella in cui si parla di Massimo e dopo sentiamo Massimo. Allora, innanzitutto dico due cose, due impressioni sul libro. Ci sono alcune storie che sono veramente tragiche, ma raccontate con leggerezza e uno spirito di ironia sottostante che le rendono, ti fanno capire che c'è una tragicità dietro, quella che è venuta fuori dal discorso che ha fatto in un certo senso, però che sono fruibili e piacevolmente da leggere. Questo credo che sia un pregio del libro, una capacità anche di scrittura che non sempre si ritrova, quindi Gianni da questo punto di vista si è manifestato, sarà forse la sua esperienza, cioè ha lasciato perdere il suo linguaggio leguleio da avvocato, che non si capisce un cazzo, no? Ed è riuscito invece a utilizzare un linguaggio che è anche originale da questo punto di vista. Questo è il primo punto che mi premeva a dire, perché io l'ho letto è un libro che si legge nel tempo da Milano a Firenze, forse riesce a leggerlo tutto, Milano-Roma te lo facciamo, sì. Poi se ci sono i ritardi normali che ci sono sui trasporti all'estero, riesci a leggerlo anche due volte, no? E o riprendere alcune parti che ti sono sfuggite perché le hai lette con celerità. Come? Assolutamente no. Sono una zecca comunista, come dice il ministro, ma anche qui siamo molte zecche. No? L'altro aspetto che volevo dire è che mi è piaciuta, ho trovato tutta una storia di un quartiere che io conosco, che conoscevo da piccolo, che molto adesso è praticamente scomparso, almeno il nome non si usa più, che è il Morivione. No? Il Morivione era un quartiere molto interessante, mi ricordo da ragazzo, perché andavo a fare delle gite sulla Vettabbia all'epoca, dove c'erano le rane, oltre che le pantegane, ma soprattutto le rane. E dove c'è Bernardino Vero, tutta quella zona lì è molto carina, adesso. E quindi mi ha fatto molto piacere ritrovare una storia, una novella ambientata in questo quartiere, oltre che tutta la storia della zona dietro Lambrate, eccetera. Quindi c'è anche una ricostruzione, direi urbanistica, antropologica delle varie zone di Milano, da questo punto di vista. E poi alla fine chiudo questa prima parte per poi andare a parlare magari di cose un po' più serie, dicendo che comunque a Milano ci sono rimaste delle zone dove c'è un'atmosfera, tra virgolette, in senso positivo, paesana, dove c'è un problema, c'è una sorta di comunità. Io sono fortunato perché nella zona dove vivo adesso, che è via Montegana, il quartiere Baiadera e il quartiere Stadera, noi su via Montegana abbiamo 7 panifici. Giuro, li ho contati, ho detto, cazzo, quanti panettieri ci sono in 200 metri di strada. E c'è ancora, certo, la composizione della popolazione è variegata. La prima lingua che si parla è l'arabo, poi probabilmente il secondo è il cinese, il terzo è quelli del Bangladesh, il quarto è il milanese, perché la popolazione anziana parla milanese, il quinto forse è l'italiano, che è come lingua, se facciamo un ranking dei linguaggi più diffusi. No? Però ci sono, è vero quello che ha detto Atomo, appena esci da alcune direttrici, diciamo, ti sposti un attimino, c'è tutta una situazione completamente diversa. Adesso si sta vivendo un processo, non voglio sostituire Lucia, ma c'è un processo di gentrification che tende a sussumere zone sempre più semiperiferiche, creando nuove periferie contemporaneamente. Quindi c'è un processo di auto, di distruzione e creazione di determinati meccanismi che nascondono anche, e qui il punto che, su cui volevo parlare, poi così lascio il destro poi a Massimo, di una composizione del lavoro, perché il libro parla di precariato. Fino adesso il termine precariato l'abbiamo usato poco, no? Ma tutte le storie hanno un fil rouge che riguardano storie che hanno a che fare col meraviglioso mondo del precariato e con delle percezioni, e questo è un altro sicuramente dato molto positivo del libro, perché fa vedere come magari una situazione che appare sufficientemente simile, contratto a tempo determinato, contratto a chiamata, età, vita, eccetera, poi vengono lette e percepite in maniera molto differenziata. Una delle caratteristiche della precarietà è che non c'è una omogeneità della condizione lavorativa. E questo noi che abbiamo fatto lotte sulla precarietà, e Massimo lo sa bene, no? Da San Precario della media in poi, è un tema assolutamente importante e critico. Perché un conto è organizzare la fabbrica, dove c'è una figura tendenzialmente, anche se nella fabbrica ci sono figure eterogenee, eccetera, ma c'è una figura tendenzialmente egemone dell'operaio massa all'interno di un contesto produttivo ben definito. Un conto è organizzare un'attività lavorativa che tende più, sempre più a diffondersi nella città, non ha uno spazio fisico ben delimitato e a seconda delle caratteristiche soggettive del precario e della precaria viene vissuta in maniera diversa. Per alcuni vale il discorso, vabbè, ma cosa c'è di male? Mi fanno un contratto a stage a 700 euro al mese, va bene, cosa c'è di male? Pensi che c'è gente che non ha neanche quello. E l'altro dice, mi fanno un contratto a 700 euro stage per 3 mesi e si incazza come una bestia, però non riesce a... Allora, le storie che vengono raccontate qui sono più storie di reazione, forse per questo c'è riferimento all'Apocalisse, che qui faceva riferimento già nell'inizio, sono storie più di tentativo di opposizione individuale, ma ci sono anche storie collettive, no? Da questo punto di vista. E da questo punto di vista Milano è stato un laboratorio assolutamente importante, è sicuramente il più avanzato a livello nazionale da questo punto di vista, perché la composizione del lavoro, la dinamica della composizione del lavoro a Milano è stata più accelerata e anticipato quello che poi si è diffuso anche in altre aree, per una storia di Milano, per una caratteristica strutturale del processo produttivo, per determinate conformazioni, per un processo migratorio e una diversità, una specializzazione produttiva molto varia. A Milano si produceva di tutto, non erano le company town come la Fiat, l'automobile, Ivrea, l'Olivetti, eccetera, eccetera, no? Questo richiamava una composizione della forza lavoro più variegata, no? E questo da un lato ha rappresentato in alcuni anni, penso soprattutto agli anni 90 e i primi anni 2000, una ricchezza, una potenzialità di conflitto che ha generato anche delle forme di pressione, delle forme di manifestazione, di riconoscimento, cercando di deturnare, di modificare, invertire quel senso di debolezza che la condizione, e di ricattabilità che la sensazione precaria, la condizione precaria automaticamente genera. Quando una persona ha un contratto instabile è più facilmente sottoposto a ricatto, o almeno lo era, perché oggi anche una persona che ha un contratto stabile di lavoro è comunque altrettanto ricattabile, ma all'epoca non era proprio così, negli anni 90 e negli anni 2000, quando c'è l'esplosione, sono i due decenni del cambiamento forse più forte che ha avuto Milano, no? E questo ha lasciato spazi di conflittualità che sono espresse appunto nel fatto che Milano è diventata la città dove maggiormente le lotte sulla precarietà sono state vissute e hanno cercato di portare avanti un determinato discorso. Però contemporaneamente, e qui chiudo, Milano è stata anche all'avanguardia nel chiudere gli spazi a queste lotte. Cioè se prima si era creata una situazione di apertura o di potenziale apertura, che siamo stati in grado di intercettare, di cavalcare, a partire dalla fine della prima decade del 2000, 2009, 2010, diciamo così, gli spazi sono ristretti. Sono ristretti perché Milano ha subito da una parte un processo di espulsione, gentrification, di tutta una serie di fasce lavorative, ha impedito un ricambio dall'esterno, perché viene per un giovane, magari anche con buon titolo di studio, venire a lavorare a Milano oggi è praticamente diventato impossibile per gli elevati costi, la difficoltà di trovare un alloggio e tutte le problematiche che ben conosciamo, ma anche perché la riorganizzazione del capitale sul piano territoriale ha portato allo sviluppo e alla previsibilità di quelle che sono le piattaforme. Le piattaforme digitali, che sono tutte quelle che noi quotidianamente utilizziamo, sono diventate un processo di intermediazione nell'attività comunicativa, nell'attività di lotta. Anche oggi per organizzare una manifestazione si fa il gruppo WhatsApp. Voglio dire che, cioè, e magari ci si organizza una manifestazione con dei collettivi senza che tu vedi le persone, o le vedi random, no? E questo mette in moto un processo di solitudine politica, in un certo senso, oltre che personale, che viene mistificata dicendo che comunque grazie alle piattaforme abbiamo i social, che sono quelle che rendono possibile e ampliano tutte le possibilità di comunicazione, quando in realtà questo contesto individualizza ulteriormente non soltanto il rapporto lavorativo, perché la precarietà è un'individualizzazione del rapporto di lavoro, ma individualizza anche le relazioni, che potrebbero essere la precondizione per sviluppare una capacità conflittuale. E questa Milano è stata la città che prima ha sperimentato questo processo di ridefinizione delle relazioni sociali. E questo è un problema che dobbiamo sicuramente, di cui dobbiamo renderci conto in primo luogo, e poi cercare di affrontare quelli degli strumenti adeguati. Il tutto acuito dopo la fase della pandemia. Ah, certo. Dopo la fase della pandemia, dove quell'esperimento sociale che ha fatto sì che, perlomeno per una generazione o più generazioni, si è perso totalmente quella che era la socialità ante. Cioè, scusate, certo, se parlo di me, non mi viene più voglia di uscire, di prendere la macchina dal mio paesino, da Baggio, venire qua in città e andare a trovare gli amici al bar, cosa che invece facevo con felicità. Era il mio luogo. È anche l'età. No, no, no. E mi adeguo, in realtà mi adeguo in una socialità differente, nei peggiori bar di Caracas, lì a Baggio, dove c'è la statuetta del gattino cinese che fa così, insieme a quattro vecchietti, a quattro giovinastri scombinati, cioè con i quali lego fintamente, perché non è la socialità che avevo prima con il mio gruppo, con quelli che frequentavo. Eccoci qua. Allora, Michele adesso ci leggerà un pezzo preso da Ornella. Ornella nasce alla Comasina, nasce con il nuovo millennio. È una cosa per me, ecco, questo tipo di scrittura è la prima volta in vita mia che ho scritto per accompagnarmi al carattere di questa figliola della Comasina, senza punti, senza virgole, di getto come è il personaggio. Cioè, personaggio di Kerouac dei sotterranei. Il personaggio poi, a sua volta, perché va a abitare alla Comasina con i genitori? Perché suo padre aveva un gemello, il gemello l'hanno messo in manicomio, eravamo prima della legge Basaglia, e quel manicomio fu trasferito al Paolo Pini. Paolo Pini confina con la Comasina e quindi i genitori, per essere più vicini al manicomio, vanno alla Comasina che stavano costruendo proprio quando loro vanno ad abitare. Ornella. Avevo quasi 15 anni. Avevo quasi 15 anni, facevo il minimo indispensabile, ho preso il diploma senza difficoltà, con un voto più vicino alla media bassa che alla media alta, 67. In estate 2019 avrei fatto meglio a farmi bocciare, così facevo un altro anno in pace senza il continuo, devi trovare un posto, devi fare domande con cui mi torturavano a tavola. Mentre mangio, una cosa che non sopporto è il predicozzo durante il pasto. Cioè, togli appetito, guasta il fegato, Comunque ascoltavo in silenzio, mai fatto una piega. Ho imparato a stare dentro ma contro nello stesso tempo. Non c'è contraddizione. La passività come difesa. Pigramente rintanata alla Grange, mi sono allenata per 5 anni alla resilienza. C'era dentro il Lagrange un gruppo del CCS, il coordinamento dei collettivi studenteschi, legato al centro sociale Cantiere. Ogni tanto organizzavano uno sciopero, una manifestazione, riunioni, assemblee. Avevano un camion con il megafono, le bibite. Noi dietro con lo striscione si ballava per strada tutti insieme. A scuola però anche quelli di Casa Pound non erano mica pochi. Facevano il saluto romano, giusto per provocare. Capitava che i più furiosi delle due parti venissero alle mani, però senza esagerare. Il più delle volte si limitavano a scambiarsi ingiurie, minacce, poi ognuno se ne andava per conto suo. Destra, sinistra, un doppio sciame con vite parallele. Andavamo in bar diversi, pizzerie diverse. Al parco ex Paolo Pini i fascisti non venivano, o se venivano restavano in incognito. Era presente spesso Radio Popolare. Li ho sempre trovati noiosi. Però sono brava gente. Al posto del vecchio obitorio hanno aperto un ristorante con un nome strano, Yodok, che poi sarebbe Giacomo, in una qualche lingua montanara, una creatura della cooperativa Olinda. Prezzi circa medi, con i tavolini fuori, cibo anche vegano perché bisogna star pure sul pezzo. A un passo c'è il teatro. Nel giardino degli aromi il clima è moderatamente orientale. Andavo spesso quando frequentavo il Lagrange, mi trovavo bene con quelle donne bizzarre in mezzo alle piante. Io non mi sono mai associata a niente. Questa è stata l'unica eccezione. La provincia di Milano aveva comprato un terreno agricolo quasi disabitato ad Affori. Nel 1924 l'ingegnere Italo Vandone aveva terminato la costruzione della grande astanteria manicomiale, più tardi chiamata Paolo Pini, nel 1945, per omaggio al defunto dottore. Nel pieno dell'attività la struttura ospitava oltre 1000 internati con varie patologie. Mi sono letto il diario di una diversa, in cui Alda Merini, la poetessa, racconta del suo lungo ricovero negli anni 60, di elettroshock, di fascette, cioè le corde di canapa per legare i matti agitati a letto. Conclude Alda Merini che il manicomio è il tempio di un'aberrante religione. Oggi la lobotomia è vietata, non rinchiudono i matti. Per omologare i disobbedienti si trova modo di farli lavorare. La propensione all'inattività produttiva viene equiparata ad una malattia mentale. Fino al diploma non c'erano problemi, mi davano qualche soldo a casa, facevo la babysitter nel quartiere quando capitava. Poca roba, giusto per arrotondare, non avevo grandi esigenze. Pizza, birra, cinema, magari aperitivo, tequila. A farmi non ci pensavo proprio, mi facevano un po' paura quelli che si facevano di brutto, cioè intendo dire che mi spaventava diventare io così, non che se la pigliassero con me, sia chiaro. Una volta con Gloria, una delle mie amiche più strette, sono andata a lavorare sotto Natale, 30 giorni al Conad di Via Ceva. Mettevamo la merce sugli scaffali, si occorreva alla cassa, le 8 ore non finivano mai. Non so se mi irritavano di più i capi che gentilmente sollecitavano o i capi che con malagrazia strillavano di darsi una mossa. 2 forme di tortura, comunque. Gloria era contenta, sperava la chiamassero ancora. Le piaceva spendere i quattrini racimolati. Oh, alla fine avevamo preso circa 1500 euro a testa con i ratei di tredicesimo, quattordicesimo, ferie, TFR. Il primo stipendio, brava! Hanno festeggiato i miei genitori, tutti contenti. L'ho capito subito. A me lavorare non piace proprio per niente. Non capisco questa smania generale di indossare una divisa, ripetere sempre gli stessi gesti, trottare con poche pause, per ripetere per un tizio che poi nemmeno conosci. Cioè decide lui se vendere mele, saponette, biscotti. Diceva mio padre, il saggio collega Fulvio, quando il padrone della Faren ordinava loro qualche cosa di incomprensibile lasciandoli sconcertati, diceva: attacca l'asino dove vuole il padrone e se si rompe il collo, danno suo. Io intanto stavo dalla parte dell'asino. Non trovavo giusto che ci rimettesse il collo, inoltre mi sembra poco dignitoso avere chiaro che quella che stai facendo è pura idiozia, ma farla lo stesso perché lui comanda, perché il suo ordine è legge. I ragazzi e le ragazze del cantiere si tenevano abbastanza alla larga dal lavoro. Poi quando trovavano un buon impiego magari si tenevano alla larga dal centro sociale. Però insieme al gruppo giovane ribelle nelle case occupate di piazza Stuparic 18 nello spazio di mutuo soccorso abitavano circa 30 famiglie, lavoravano nelle officine, nella logistica, nelle pulizie, dove capitava. Faticavano assai, guadagnavano poco. Stringevano i denti, decisi a sopravvivere, guardavano avanti, non indietro. Insomma, una fusione interessante. Non erano santi, d'accordo, nemmeno missionari. Tuttavia si davano una mano per come potevano. Mi piaceva l'ambiente, si rafforzava la mia diffidenza per il lavoro salariato. Con il lavoro avevamo poco in comune, quasi niente da dirci. Non avevo nessun programma politico, la rivoluzione mi sembrava una fiaba, non avevo alcuna idea di quale mondo nuovo si potesse mettere al posto di quello vecchio. Sapevo soltanto che dovevo fare il possibile per sgattaiolare via dal destino salariale confezionato. Dopo il diploma, i nodi tentavano di venire al pettine. Scadenze fastidiose, inquietanti, si accavallavano in rapida sequenza. Mica era facile districarsi a 20 anni nel labirinto del vivere quotidiano. Cercavo di galleggiare. In mancanza d'altro, in assenza di alternative, ero stato per 40 giorni al centralino in un mobilificio di Bruzzano. Sostituivo a termine una tizia. 10 turni li avevo saltati mettendomi in malattia perché volevo evitare che avessero la tentazione di chiamarmi ancora. Andavo con i mezzi, ci mettevo abbastanza, ma in bicicletta era troppo lungo, in più era ottobre, spesso pioveva, insomma, un purgatorio. Comunque, arrivai alla fine tirando un sospiro di sollievo. Una settimana dopo stavamo festeggiando il compleanno della mia amica, Agata, una tavolata alla Cascina California, zona Niguarda, via Ornato. Posto carino. A me piace, anche perché i padroni sono 2 gemelli uguali. Non capisci mai chi sia l'uno e chi sia l'altro. Vicino a me sedeva un certo Massimo, conosceva Agata, non lo sembrava proprio, eppure era un avvocato. Seguiva cause di lavoro, ma fuori dai patronati sindacali, erano sportelli con la sigla San Precario. Si chiacchiera, gli racconto di quanto poco mi piace lavorare, lui ascolta divertito. Poi mi dice che con una vertenza posso ricavare qualche soldo. Io ci credo poco. Però Massimo mi ispirava simpatia, non volevo spegnere il sorriso, deludendolo con un rifiuto. Così mi faccio arruolare nell'impresa giudiziaria. D'accordo, vai avanti. Apre la borsa, tira fuori un foglio, firma una procura. Cade dal bicchiere una goccia di Barbera. Lui si offre di sostituirla, ma lo fermo. No, no, va bene così. Porta fortuna. Il giorno successivo porto busta paga, contratto di lavoro. Ora devo solo aspettare. Dopo 3 mesi si va in tribunale. Nella stanza di un giudice che parlava a bassa voce, in più mandava le parole dentro la giacca, non si capiva niente. Il padrone del mobilificio mi lanciava occhiate cattive, trasudava forse odio, forse disprezzo, magari le due cose insieme. A un certo punto l'avvocata del nemico lancia un amo. Non sarebbe dovuto un bel niente, tuttavia si potrebbe chiudere la partita con 5.000 euro. Io la volevo baciare in fronte, vittoria, bingo. Invece Massimo interviene. Non è una somma adeguata. Io penso che è uno svitato. Ho la tentazione di imbavagliarlo. Invece no, si mettono a discutere. Il giudice smette di infilare le parole dentro la giacca, finalmente ci guarda in faccia e dice con voce comprensibile: propongo 9.000 euro più spese. Io sussurro a Massimo in un orecchio che se la tira ancora in lungo lo strozzo all'istante. Segue un breve tira e molla, finalmente la firma. Non sto nella pelle. Per la gioia non devo neppure soldi a Massimo, lo pagano loro. Il gruzzolo è mio. Questa pratica si chiamava cash and crash. È un dato, è un fatto reale. Tanto ringrazio il riferimento al Barbera, che è la Barbera, che è il mio vino preferito. Comunque. No, diciamo che in quegli anni, negli anni in cui facevo parte del collettivo San Precario e appunto come avvocato seguivo le vertenze che il collettivo promuoveva, soprattutto in anche in situazioni singole come quelle che abbiamo appena ascoltato, ma anche in vertenze collettive, è stato un periodo, come diceva prima lo stesso Andrea, in cui in una Milano che era appunto il laboratorio della trasformazione della città fordista, quella che appunto si era creata un'identità post seconda guerra mondiale, che di fatto aveva creato e si era strutturata in funzione appunto delle fabbriche che la circondavano, ha cominciato a cambiare appunto la sua identità e con essa l'immaginario che insomma, e la narrazione che ne seguiva. E in quegli anni ci siamo resi conto appunto come il concetto di precarietà, che poi di fatto è il processo di atomizzazione delle masse, fosse sempre più pervasivo e persuasivo anche in qualche modo. Quindi, senza tornare indietro a quello che è stato fatto, o guardare indietro i vecchi ricordi, dire quanto si stava meglio prima, di quanto non si stia, insomma, la solita retorica del... Io direi che sostanzialmente sarebbe opportuno, anche alla luce di quello che ha scritto Gianni, che secondo me ci sono due questioni importanti. Una l'ha sollevata prima bene Andrea, quando faceva riferimento al fatto che la precarietà, per quanto sia un processo generalizzato, ha una grande particolarità rispetto agli altri meccanismi di sfruttamento che abbiamo conosciuto, e che la percezione individuale di questo meccanismo è soggettiva, cioè ciascuno a parità di condizioni di precarietà le percepisce in maniera assolutamente diversa e vive soprattutto il fallimento che nasce appunto da questo processo di individualizzazione e precarizzazione in maniera molto diversa. E da qui nascono poi una serie di problemi di cui vi parlerò, che è appunto una ricerca di prassi conflittuale che si possa facilmente riprodurre. Questo è il primo ostacolo che abbiamo avuto, perché proprio perché la percezione della condizione precaria è una condizione fortemente soggettiva, sebbene sia universale. L'altra questione che secondo me è molto importante ed emerge bene anche in maniera simpatica, e che affrontando questo argomento e questo tipo di conflitti cominciamo in quel periodo a distaccarci dalla retorica del lavoro. Cioè, il lavoro era sfruttamento prima ed è sfruttamento oggi. Non ha dato dignità allora e non ha dignità attualmente. Soltanto che intorno a questa retorica si è costruito un mostro, che è quello del il lavoro come strumento di emancipazione. Questo è il grande, e noi ne siamo di fatto in qualche modo testimoni. E adesso appunto, e non è un caso che dell'enorme gap che si sta creando tra quelli che noi chiamiamo le nuove generazioni e la difficoltà di comunicazione che c'è tra noi e questi soggetti. Cecilia, che probabilmente fa parte di questa cosiddetta nuova generazione, col cazzo che vuole andare a lavorare, e fa bene. Peccato che questo rifiuto del lavoro non è un rifiuto consapevole come lavoro uguale sfruttamento, rimane sempre all'interno della propria soggettività, della propria condizione individuale, e fa fatica ad uscire e di diventare discorso collettivo. Quindi queste secondo me sono due questioni molto importanti che vengono sollevate nel libro, al di là della novella. Noi, quello che posso dire è che certamente in quel periodo Milano fu un grande laboratorio, perché capimmo e sperimentammo sulla nostra pelle quanto fosse importante la rappresentazione del conflitto, e fosse importante quanto il conflitto stesso, per poter uscire dalle catene dell'immaginario che quotidianamente veniva proposto e quotidianamente viene proposto, e che, non so come dire, questa tensione verso la negazione di ogni forma di desiderio che sostanzialmente oggi governa le nostre esistenze. Anche perché un altro carattere fondamentale e caratterizzante della precarietà, spesso ne abbiamo parlato, è quando noi diciamo che nel mondo attuale, nel mondo del lavoro, non c'è più distinzione tra tempo lavoro e tempo vita. Sostanzialmente noi stiamo dicendo una cosa molto importante, cioè che l'estrazione di valore che non si limita più alle 8 ore, alle 4 ore di lavoro che noi facciamo quando ci entriamo nel luogo di lavoro, ma che ogni attività, ogni relazione che noi creiamo col prossimo viene sussunta e da essa viene creato valore, valore rispetto al quale noi non abbiamo alcun accesso. Quindi questo significa che cosa? Che riuscire a rompere questo meccanismo, sia dal punto di vista dell'immaginario, e prendere consapevolezza che non è più soltanto una questione legata al momento dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma è la mia stessa vita ad essere messa al lavoro, cose che abbiamo detto centinaia di volte. È evidentemente un elemento che è fondamentale per comprendere la condizione in cui ci troviamo. Peraltro mi viene da dire che questi discorsi che facevamo 15 anni fa, 20 anni fa, agli inizi del 2000, in realtà oggi sono certamente più comprensibili, perché oggi quell'identità che si stava costruendo della città vetrina, oggi non è più in fase di costruzione, è bene consolidata. Quindi non siamo più in una fase di costruzione di quel meccanismo, non si parla più di precarietà, non perché la precarietà, o meglio il soggetto sociale, il precariato non c'è più, perché siamo tutti precari, proprio perché, non so come dire, prima eravamo, era facile collegare la condizione di precarietà al tipo di contratto e alla condizione lavorativa che ciascuno di noi poteva avere. Oggi siamo tutti precari perché è evidente che non è il contratto di lavoro, ma è la nostra condizione di esseri umani asserviti a questo modello che ci rende precari, e non possiamo, e sarebbe un gravissimo errore pensare che la precarietà possa essere circoscritta a quelle 4, 5, 6, 7 ore di merda in cui veniamo chiamati a lavorare, ok? Perché non può più essere così. Tutto questo ovviamente pone, e noi abbiamo provato in quegli anni, credo che sia secondo me l'esperienza più importante che San Precario abbia portato, cioè quello di sperimentare nel corso degli anni, anche in maniera virtuosa, forme di rappresentazione del conflitto che fino a quel momento non erano state provate, utilizzando peraltro gli stessi strumenti e le stesse forme di creazione dell'immaginario che il capitale crea e utilizza quotidianamente, soltanto rovesciandole e quindi creando attraverso quegli strumenti delle forme di, diciamo, di sovversione, di immaginario alternativo che fosse in grado di, non so come dire, di svegliare le persone, di portarle dalla nostra parte, perché quello è fondamentale. Io mi ricordo che, tra l'altro, l'altra questione che poi riguarda poi molto da vicino il sottoscritto è che, ad esempio, l'azione legale, quella che veniva svolta all'interno del collettivo di San Precario, non era uno sportello, in realtà diventava un momento di confronto. L'azione legale era vista principalmente non fine a se stessa, ma come uno degli strumenti che noi offrivamo alle varie realtà lavorative con le quali ci confrontavamo, spiegando bene loro che sostanzialmente quello era uno degli strumenti e non lo strumento principale. Era fondamentale utilizzare l'azione legale perché la vittoria giudiziale in qualche modo avrebbe legittimato anche dal punto di vista istituzionale l'istanza del lavoratore, che vincendo la causa si sarebbe convinto di aver ragione, ecco, mettiamola così. Ma fondamentalmente, posto che poi di sconfitte ce ne furono tantissime e molte vittorie arrivarono molto dopo rispetto all'esigenza che in quel periodo abbiamo avuto, vi faccio esempio la causa che abbiamo avuto con Wind, che abbiamo vinto in Cassazione dopo 10 anni, ma ormai quell'esigenza, quel momento era già bello che svanito. I lavoratori che parteciparono a quell'azione ormai facevano tutt'altro nella loro vita, perché dopo 10 anni potete capire, insomma, che non aveva più una sua attualità. Ecco, la cosa che ebbe molta importanza è appunto inserire l'azione legale all'interno di un percorso, all'interno di una narrazione, all'interno di una creazione di immaginario conflittuale, dove l'azione legale, e all'interno di questo la cosa, mi ricordo, più importante è che quando venivano i lavoratori in studio, e noi ci eravamo preparati per questo, avevamo una specie di script che seguivamo, esattamente come avviene nei call center quando devi sentire il cliente, noi eravamo dei grandissimi venditori di pentole, e fondamentalmente spiegavamo e sostanzialmente che dovevano uscire dal racconto della sfiga, che la condizione era sì una condizione che loro percepivano come individuale, ma che quello che la persona che stava di fianco loro viveva esattamente la stessa condizione, e che quindi non so come dire nella società della, non so come dire, dove viene esasperata ogni forma di risultato e a sua volta il fallimento viene tacciato come la peggiore delle cose possibili, immaginatevi che cosa, insomma, che tipo di sentimento si potevano sentire, possono sentire, perché in realtà non è cambiato nulla di fatto. E quindi la prima cosa era riuscire a veicolare questo discorso per far uscire i lavoratori e le lavoratrici fuori da questo racconto della sfiga. E diciamo che per un certo periodo questo tipo di narrazione ha funzionato. Abbiamo seguito notevoli vertenze collettive. Mi ricordo sì, abbiamo fatto, io mi ricordo che facemmo un corteo durante la settimana dell'artigianato, un corteo all'interno della fiera di Rho, un corteo con gli striscioni, corteo dentro, perché non pagavano i lavoratori degli sportelli. E Pazzali, quello che adesso è indagato per avere registrato, praticamente ci chiamò e il giorno dopo, stante la figura di merda che eravamo riusciti a fargli fare, direttamente il giorno stesso nei suoi uffici ci chiamarono, il giorno dopo pagarono tutti i lavoratori, perché l'attacco all'immagine che ebbe quella settimana dell'artigianato con la gente che andava in giro fu fortissimo. Creiamo veramente iniziative, se non per dire quanto era bello. Ovviamente, dico, quel tipo di esperienza ha avuto la sua vita, si è esaurita. Quello che mi viene da pensare è che, ad esempio, alcuni degli strumenti che abbiamo utilizzato allora per aggregare lavoratori, per creare conflitto, per attaccare le imprese, per attaccarne soprattutto l'immaginario che quelle imprese creavano e attraverso il quale vendevano i loro prodotti, è tuttora assolutamente attuale. Noi abbiamo seguito con un collettivo, mi riferisco ad esempio a tutto il lavoro che ha fatto Deliverance Milano con i rider. Durante la pandemia i rider hanno fatto cinque giorni consecutivi di sciopero e bloccando la città durante la pandemia, ed è stato, pochi l'hanno riportato, ma fu un momento altissimo. È chiaro che, non so come dire, sono sempre esperimenti che uno cerca di portare avanti, e la cosa importante è che si deve sapere, proprio per questi caratteri che la precarietà ha come propri, non, è molto complicato, e secondo me non ci si deve incistare nella riproducibilità dei meccanismi conflittuali, ma che bisogna trovarne di volta in volta a seconda della condizione particolare e peculiare che ti trovi ad affrontare, senza fissarti troppo, perché altrimenti rischi di non uscire da questa condizione e di frustrare la capacità conflittuale che tu saresti in potenza in grado di creare nelle varie situazioni. Quindi dico, secondo me, ripeto, ho molte, tipo i cinque assi della precarietà, oggi sono assolutamente attuali. Voglio dire, se oggi presentassimo i cinque assi della precarietà, uno direbbe, cazzo, che ideona! E risalgono a quanti? 15 anni fa, 10 anni fa. Cioè, non so come dire, certi meccanismi, è chiaro che poi tutto andrebbe rivisto. Il problema principale, e poi chiudo, oggi, che mi rendo conto, è la capacità di comunicare con i soggetti come Cecilia, nel senso che è chiaro che poi c'è un gap comunicativo che non è sempre facile da affrontare, occorre riuscire ad andare incontro per, non so come dire, trovare nuove forme di rappresentazione del reale che siano in grado di essere comprese. Il problema non è loro, è nostro che non siamo in grado di, non so come dire, di comunicare con loro. Però certamente, non so come dire, un soggetto che oggi rifiuta apertamente il lavoro, beh, insomma, è una cosa molto forte che io condivido appieno, anche se in qualche modo va a intralciare la mia attività da avvocato del lavoro. Lo dico contro i miei interessi. Per spiegare, Cecilia è ovviamente uno dei personaggi. Vive a Greco, anche lei è, diciamo, di una generazione più recente, è una di quelle vicende in cui i genitori le vogliono far fare la diplomata e questa non ne vuole sapere, e in tutti i modi, siamo addirittura dentro il blackout, approfitta anche del blackout pur di non studiare, perché è la chiave per andare a lavorare, e piuttosto si dà a Zoloft, Celexa, c'è tutta una serie di farmaci, c'è un'intera pagina di farmaci che questa sceglie di coltivare per, accanto alla propria depressione, ma non vuole andare a lavorare, non ne vuole sapere. Hanno un bel da fare la mamma parrucchiera e il papà maestro a mettere da parte i soldi, i risparmi e farle fare la scuola. Non la finirà mai, perché sa che se la finisse poi l'aspetta un altro destino, quello di cui parlavo. Sarebbe una pessima cliente per lo studio legale di Massimo Marazzo. Però perché grandi soddisfazioni. Bisogna perché per fare una causa di lavoro almeno un minuto bisogna. Vabbè, però poi ci sono cose anche ci sono anche cose molto divertenti. Non questa so, si ferma prima. Vi racconto proprio per la pervasività della capacità, diciamo, di creare la relazione del capitale, quindi tutto ciò che è legato alla bellezza, alla rappresentazione di sé. Questa è divertentissimo. Abbiamo bisogno della carta d'identità di una lavoratrice perché dobbiamo depositare il ricorso, no? Lei ci manda via mail la scansione della sua carta d'identità, però cancella la fotografia. E gli ho detto: ma scusi signora, perché? È perché non ero venuta bene. Ragazzi, qui noi ridiamo. Però non so come dire, la capacità pervasiva che questo modello ha sulla vita delle persone, poi cioè questi arrivano a scarabocchiare la faccia della carta d'identità perché dice non sono venuta bene. E che cazzo, insomma. Bene, noi ci avevamo pensato di chiudere alle 8, sono le 8 meno 3 minuti. Possiamo regalare al pubblico 3 minuti se qualcuno vuole respirare, ma... e poi chiudiamo. Direi che abbiamo dato. Eh? Abbiamo dato. Se vogliono fare domande, sì. Sì, no, dicevo, gli diciamo 3 minuti. Ce lo presenti così, no. No, scherzo. Se c'è qualcuno che qualche cosa, se no ci... ma questo non, è... non fai il firma copia? Cosa sei venuto a fare qua? Non è per vendere i libri? Il firma copia, faccio il firma copia.